Another possible problem is a dirty knife or plate. Listen to the following dialogue, an extreme example, which contains some of the new vocabulary and also the words for clean, pulito, and for dirty, sporco. One other word you'll hear, a very recognizable one, is disgustoso, disgusting. Listen to those words again and repeat each one. Pulito, sporco, disgustoso. You'll also hear two new phrases. Ascolti ciascuna espressione. Listen to each phrase. E la ripeta dopo la seconda volta. Aspetti un attimo. Wait a minute. Aspetti un attimo. Si sbaglia. You're wrong. Si sbaglia. Here are those phrases again. Aspetti un attimo. Si sbaglia. E adesso ascolti. Scusi? Sì, signore? Guardi questo coltello. Sì? È sporco, vede? Sporco? Sì. Non è pulito, guardi. No? No! Scusi, signore, ecco un altro coltello. Grazie. Ma aspetti un attimo. Sì? Questo piatto. Il piatto? Anche questo è sporco. No! Guardi, è disgustoso. Mi scusi, ecco un altro piatto. No, un attimo. Aspetti un attimo ancora. C'è altro, signore? Ma sì, la forchetta. Anche la forchetta? Sì, e il cucchiaio. Ah, no, il cucchiaio no. Ma sì, certo. Scusi, signore, non capisco. Questo cucchiaio è pulito. La forchetta anche, e anche il piatto. Tutto è pulito. Come? Sono sporchi, ma non vede? No, signore. Lei è pazzo. Ed ora guardi questo bicchiere. Anche il bicchiere? Certo, è sporco. No, guardi. Il bicchiere è pulito. Lei si sbaglia. No, lei si sbaglia. È sporco. E anche la tazza. E la tovaglia. I tovaglioli. Tutta la tavola è disgustosa. Questo non è vero, signore. Certo che è vero. Tutto è sporco, disgustoso. La tavola, il ristorante, lei. Io? Esatto. E io qui non mangio. Arrivederci. Well, we did say it was an extreme example.